Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia, grazie a Radio Big World, e parliamo di terra piatta. Se siete qui di sicuro è perché parlo di terra piatta. Quindi ripartiamo con il discorso della decodifica della terra piatta, qualcosa di genere. Diciamo la creazione della Terra come è descritta nella Genesi è quasi assurda, diciamo, da un punto di vista logico, ma da un punto di vista, diciamo, della Terra piatta ha perfettamente senso. La Terra è stata creata il primo giorno, senza forma, senza una forma determinata, e questo lo ritroviamo nella Genesi 1-2. Invece qui riporto quello che dice: ora la terra era informe e deserta, e le terre ricoprivano l'abisso, e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. E Dio disse: sia il firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque, quindi l'acqua sotto e l'acqua sopra, divisi da il firmamento. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento, e così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare, e Dio vide che era cosa buona. Il firmamento, nella versione di King James, divide l'acqua da sopra dall'acqua sotto, e mise il sole e la luna all'interno, che quindi è possibile che il sole sia a 63 milioni di chilometri da noi, se è dentro. Nel quarto giorno, quando venne creato il sole e la luna e le mise dentro, le ha messi dentro il firmamento, quindi è proprio il contrario di come ci hanno insegnato a scuola. Il sole e la luna sono delle stesse dimensioni. Non è vero che il sole è un miliardo di volte più grande della Terra, qualcosa di genere, forse anche di più, e questo lo possiamo benissimo osservare guardando i video dei palloni amatoriali, che se andate a cercare high altitude balloon footage trovate questi video di questi palloni amatoriali, come rammento spesso, in cui si vede che, a parte il fatto che non si vede nessuna curvatura a meno che non ci siano lenti a occhio di pesce, oltretutto vanno molto più alti degli aerei, e soprattutto si vede benissimo il punto luce del sole, e si nota benissimo che il sole è che, come se fluttuasse in aria, che non è lontanissimo, ma è lì. Quindi mi resta difficile credere sia 63 milioni, 63 miliardi di chilometri, quanto ci hanno insegnato, non lo so, secondo me è ridicolo. questa è la prima cosa che mi ha fatto avvicinare alla terra piatta, il fatto che il sole si vede benissimo che non è come ci hanno insegnato che è. E qui poi abbiamo la domanda massonica: sei nel livello? Sei a livello? Essere a livello significa essere piatti, notare l'occhio che vede tutto al centro, un triangolo che guarda in su nel legno e un altro attaccato che punta verso il basso, quindi come sopra così sotto. Quindi nel simbolo massonico il loro simbolo rappresenta la terra a livello praticamente, con il compasso che rappresenta la circolarità, il circolo, che è un tondo come è descritto nella Bibbia, che sembra fatta con il compasso, un cerchio, e nel cerchio esterno c'è l'Ouroboro, che rappresenta il muro di ghiaccio che ci circonda. La G nel centro, invece, la G è al centro, è dove c'è Dio, God. Il circolo invece in cima al compasso rappresenta l'occhio che vede tutto. Il trono di Odino rappresenta anche così sopra come sotto, e possiamo vedere come il compasso e la squadra, il compasso e la squadra rappresentano triangoli, uno che punta verso il verso su, e uno che punta verso giù, così sopra come sotto. E completo, se lo completiamo, rappresenta la stella di David, e rappresenta anche l'uomo e la donna. Questo simbolo rappresenta anche l'uomo e la donna nell'atto della generazione. Quindi abbiamo God, Generative, Geometry, e in numerologia la G è uguale al numero 7. Il numero della Terra è 4, e il numero del Paradiso è 3, che è inoltre la Trinità. Quindi quando uniamo la Terra con il Paradiso viene fuori 7, 4 e 3, 7, e 7 è il numero divino per Dio. Inoltre rappresenta i 4 angoli. Notare come la terra piatta è anche nella mappa, e la terra piatta è anche nella bandiera delle Nazioni Unite. Notare inoltre che nell'immagine ci sono, la terra è circondata dall'alloro romano, da una corona di alloro, e mostra che l'impero romano non è mai morto, ma è stato rimpiazzato dal Sacro Romano Impero, rappresentato dal Vaticano e i Gesuiti. Anche in Hunger Games c'è un simbolo simile con i due, con l'alloro. Quindi nell'antica cultura asiatica il centro della terra viene chiamato Mount Meru. Meru è il diminutivo di Merovingio. Merovingia, e c'è una alta montagna dove Dio risiede. Monte Meru viene chiamato anche Sumeru. Sumer è l'antica terra dell'Egitto, The Sumerian. Monte Meru è al centro, e Sumeru della terra della prima civiltà registrata. Gli antichi buddisti immaginavano l'universo come praticamente piatto, e questo Monte Meru al centro di tutto, e intorno a questo universo c'è un sacco di acqua che si estende. Questo universo è fatto da 32 piani di esistenza, separati a livelli e tre reami. E notare come la visione buddista della Terra è molto simile a quella dei nordici. E poi abbiamo la stanza delle assemblee delle Nazioni Unite, sembra la rappresentazione della Terra piatta, anche questa. Credete che ci nascondano qualcosa? Perché già nella loro bandiera c'è la Terra piatta, e nella loro stanza delle assemblee c'è un pilastro centrale che ricorda come, un po' come se fosse una montagna, che è un po' come se fosse il Monte Meru, che sembra che sia fatta come d'oro questa colonna. E se andiamo a cercare il G8, dove praticamente si riuniscono per discutere del nostro mondo, è perché è stata divisa in 8 parti per controllarci meglio? Io direi di sì, però è una mia opinione. E G8, God 8, gli 8 dei, o anche gate, perché sono gatekeepers, quelli che hanno le informazioni, hanno il potere, sono i custodi, quelli che controllano. E l'8 è anche il simbolo per l'infinito, quindi ci controllano in questo reame. Cosa ne è del fatto che non possiamo volare al di sopra del polo nord? Non possiamo passare dal polo nord, e non possiamo nemmeno volare attraverso il polo sud. Io credo che sia perché, uno, non c'è nessun sud o polo sud. Il sud è l'anello di ghiaccio che ci circonda, proprio come l'Ouroboro. E credo che non vogliano che scopriamo cosa c'è dall'altra parte dell'anello, e credo che sia perché siamo proprio sotto una cupola. Quindi se andiamo a vedere il principe Harry, che è andato al polo, ne abbiamo il principe Harry, se andiamo a cercare le foto di quando è andato al polo, troviamo il principe Harry e un suo amico. Il principe Harry è vestito di rosso, c'ha una giacca rossa, e il suo amico è blu. E il principe Harry non è, almeno in questa immagine, ci mostra che non è buono, perché prende quello che è buono, è vestito di rosso, come i nazisti usavano il rosso e non erano buoni. Quindi abbiamo Harry che è vestito di rosso sulla destra, che è un maschio, e la sua amica a sinistra con la giacca blu, perché è il lato femminile. E la palla terra è posta in cima a un palo da barbiere, quelli venivano usati una volta, presente quel che sembra un tipo un lecca-lecca. Quindi in origine il colore del bianco e rosso del paletto che c'è in polo ha a che fare, è associato con il sangue, e storicamente è una rappresentazione delle bende sanguinose arrotolate intorno a un palo. Durante il Medioevo i barbieri facevano operazioni chirurgiche e anche l'estrazione di denti. Il palo in sé rappresenta la staffa che il paziente teneva in mano, che teneva durante l'operazione per agevolare il flusso del sangue. quindi la domanda è: chi sta succhiando il sangue? È l'umanità che viene risucchiata del suo sangue da questi satanisti che controllano il nostro mondo? E c'è una foto in cui c'è il principe Harry che è in Antartica, dovrebbero essere in Antartica, e praticamente le condizioni climatiche sono talmente estreme che solo i pinguini e poi altri esseri viventi vivono lì, quindi non ci sono piante, niente animali a terra, solo pochi animali nell'acqua e i pinguini. E qui abbiamo, c'è praticamente questa foto dove il principe Harry è senza guanti, senza giacca, senza cappello, tutto scollato, quindi è davvero al polo sud, in Antartica, è reale, boh. E poi abbiamo un'altra foto di Harry dove fa il segno dell'occhio solo e si copre il destro, quindi è una mano sinistra anche lui, segue il male. E ci sono anche terapeutisti che fanno un sacco di segni massonici o comunque cercano di spingere verso il piano infinito, che sinceramente non sono tanto io per il piano infinito, cioè, credo ci siano altre terre che ci nascondano, ma non credo che sia infinito. Quindi se si fosse su un piano infinito, la Terra perderebbe il posto speciale al centro, il cuore, perderebbe questo significato. E poi abbiamo anche chi spinge in altri sensi, come c'è alcuni terapeutisti che spingono verso il fatto che Hitler era buono. Quindi abbiamo chi spinge da una parte verso l'infinito, come può essere l'infinito spazio, la moltitudine infinita di pianeti e stelle, e chi invece spinge su altre cose, ma è tutto per chi un po' a destra, chi un po' a sinistra ci spingono verso, è per confonderci, per mettere in mezzo tante cose che poi alla fine non sono vere. È un po' come l'altra faccia della moneta, no? Spingono un po' a destra, un po' a sinistra, quindi qualsiasi lato scegli alla fine ti controllano, è tutto per controllarti. Quindi abbiamo i rossi, i nazisti, e l'altro è blu, sono nello stesso team, fanno parte della stessa squadra. C'è qualcuno che vi spinge a odiare un lato, un altro che vi spinge a odiare un altro che vi spinge a odiare i neri, altri che vi spinge a odiare quelli perché sono di un'altra razza. Quindi è tutto per dividerci e controllarci. Credo non sia difficile dire: no, perché adesso in televisione mi fai vedere solo stranieri che aggrediscono o compiono atti criminali? Perché? Perché spingono in quella direzione lì, cercano di creare odio verso un determinato tipo di persone. È propaganda, è propaganda. Guardiamo piccole parole che portano in sé la verità davanti a tutti, in plain sight. Abbiamo la pianura, plain, il piano, perché è piatta. Poi abbiamo gli aeroplani, airplane, perché volano sul piano, sopra il piano. Airplane, aeroplano, lo ritroviamo anche nel mare, livello del mare, e in inglese è sea level, e sea è anche per vedere, quindi lo possiamo vedere con i nostri occhi. If you sea level, puoi vedere il livello, no? Guardate con i vostri occhi e vedete il livello, e anche l'orizzonte ci dice la verità, sta proprio nella parola stessa, perché è orizzontale, orizzonte, orizzontale, non curvizzonte. Cioè, so che è stupido, però è orizzontale perché, cioè, è orizzonte perché è orizzontale, orizzontale, aeroplano, orizzontale, livello del mare, no? Sono tutte cose che ci riportano al fatto che è tutto a livello, che non curva. Se no sarebbero state cambiate queste parole negli anni, una volta resi conto della verità qual è. No? Non so, questa è una cosa che mi chiedo io. Quindi la terra piatta è ricoperta da questa cupola, e anche nella parola United Kingdom, Kingdom, come il Super Bowl, che hanno il Super Dome. Dome sta per, diciamo, cupola, in poche parole. Quindi United Kingdom è governato da Monarchy, Moon Arch, Luna Arco, e l'arco sarebbe il Dome, sarebbe il Arch, sarebbe Dome, la cupola. E in altre cose alternative ci sono gli Archons, Archons, e Archons significa coloro che controllano vengono dall'arco, l'arca di Noè, Ark, Noah's Ark, è il Noah's Dome, e lo zodiaco, Zodiac, è lo zoo, Zodiac è Zoo of Ark, Noah's Ark, come i 12 segni dello zodiaco intorno, che sono in cerchio sopra di noi. E possiamo notare che nello zodiaco cinese ci sono gli animali intorno allo yin yang, che sarebbero il sole e la luna. Invece qui abbiamo il nostro oroscopo. Ogni simbolo è collegato in quattro stagioni e con l'energia del sole, e 12 è inoltre ripreso anche nell'ultima cena, per il quadro di Gesù con i discepoli. Gesù è al centro, è il numero 7, e tutti insieme fanno 13, 6 a sinistra e 6 a destra. Notare anche come i discepoli sono divisi per 3, come le stagioni, e formano 3, 6, 9, 12, 4 stagioni. E abbiamo i vestiti di Gesù nell'ultima cena, in cui metà sono rossi e metà sono blu. È vestito per metà rosso e metà blu. Il rosso è nella sua destra e il blu è nella sua sinistra. E Gesù è sotto un arco. C'è un arco dietro di lui, perché è l'Arcon, come Artù e i cavalieri della tavola rotonda. Sono 12 cavalieri e Artù sarebbe il 13esimo, che rappresenta praticamente Gesù. Per ora finiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a Radio Big World, dall'Arcadia è tutto, ciao, alla prossima.